4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buon pomeriggio, amanti dei motori. Finalmente buon pomeriggio, ero ormai abituato da 3 anni a dire buonasera. Torniamo a un orario invece quotidiano, così come è stato nei primi 5 anni, 4 ruote e dintorni, con il nuovo palinsesto di Radio 24. Andrà in onda da oggi ogni sabato alle ore 14. In più si allunga anche di un quarto d'ora, quindi più spazio per i contenuti per voi automobilisti e motociclisti. I partner però sono sempre loro, 4 ruote, con tutti i loro archivi, i loro uomini, gli ingegneri, la pista, le auto e le loro riviste. Tutto questo per dirvi che in realtà 4 ruote e dintorni non cambia filosofia, cambia orario. Un saluto anche agli ascoltatori di Riccardo Chiaberge, che non è sparito ovviamente, ma lo troverete alle ore 22:30 questa sera. Quindi gli amanti di La Finestra sul Cortile lo troveranno, il programma, stasera alle ore 22:30. Poi insomma ci abitueremo tutti al nuovo palinsesto. Per chi volesse rimanere in nostra compagnia, questo è un programma ormai da 9 anni su Radio 24, si occupa proprio di tutto ciò che ruota intorno al mondo dei motori, ma non solo per smanettoni, per tutti coloro che, accendendo l'auto 2, 3, 5, 6 volte ogni giorno, si chiedono magari come funziona un'auto, quali possano essere i metodi per risparmiare un po' di carburante o per realizzare un contratto, per esempio, assicurativo vantaggioso. Ecco, tutto questo è 4 ruote e dintorni. Tanti esperti, a iniziare da Alessio Viola, giornalista di 4 ruote. Alessio, buongiorno e bentornato. Buongiorno anche a te e agli ascoltatori. Dopo Alessio ci sarà il collega Emilio De Leidi, che ci racconterà relativamente alla prova che adesso faremo con Viola sull'Audi Q5, di una prova molto particolare per i consumi organizzata da Audi negli Stati Uniti. E poi il professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, parlerà con noi, commenterà i dati del mercato dell'auto, insomma, che vede questo 2009 con previsioni non tanto rose, anzi. Sarà Mario Rossi invece a parlarci dei segreti dei concessionari. In questi primi mesi del 2009 si stopperanno i chilometri zero, si darà grande vita alle pronte consegne perché i magazzini sono sempre più pieni di auto che non si riescono a vendere. Parleremo di Toyota, che ha sorpassato nei numeri mondiali GM per la prima volta. Poi l'avvocato Lievore ci farà compagnia con il codice della strada in mano e chiuderemo con le biciclette di Bologna. Questa sera l'appuntamento è per un evento molto molto speciale. Iniziamo allora alla grande con l'Audi Q5. Alessio, ti chiedo di spiegare a chi ancora non l'avesse vista cos'è la Audi Q5. Dunque, l'Audi Q5 è la proposta dell'Audi, appunto, per quanto riguarda questo nuovo filone delle SUV umane, cioè quelle SUV che non sono più enormi come era la X5, come è la Q7 della stessa Audi. Sono auto ben più, con dimensioni ben più normali, siamo sui 4,50 m, 4,60 m. Aveva cominciato BMW 3 o 4 anni fa e adesso finalmente, proprio in questi mesi, anche tutti gli altri marchi premium, Mercedes, Volvo e Audi, si sono inseriti in questo filone, appunto. Quindi c'è l'Audi Q5, la Mercedes GLK e l'XC60 della Volvo. Bene Alessio, allora ascoltiamo insieme quelle che sono le caratteristiche principali nella nostra prima scheda. Nell'affollato segmento delle SUV si aggiunge anche l'Audi Q5, sorella in miniatura della mastodontica Q7, rispetto alla quale è più corta di quasi mezzo metro. Equipaggiata di serie con la trazione integrale permanente 4, si dimostra stabile e maneggevole in ogni situazione. Il motore non è più a iniettore di pompa, bensì si avvale di un nuovo Common Rail, che ha messo da parte l'eccessiva sportività a favore di una notevole omogeneità di funzionamento. Ricca la dotazione di accessori, con un buon repertorio di dispositivi elettronici pensati per il comfort e per la sicurezza. Nome Audi Q5 2000 TDI 4. Carrozzeria SUV 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,62 m, larghezza 1,88 m, altezza 1,65 m. Motore anteriore longitudinale diesel 4 cilindri. Potenza 170 cavalli. Trasmissione: trazione integrale permanente, cambio manuale a 6 marce. Prezzo 40.451 euro. Ecco, queste sono le caratteristiche principali di quest'auto. Senti, è più sorella piccola della Q7 o che cos'altro, Alessio, quest'auto? Ecco sì, in effetti hai puntato il dito proprio nel punto giusto. Il nome Q5 potrebbe far pensare che si tratti di una Q7 in miniatura. In realtà sì, rimane pur sempre la natura di SUV, però l'auto è evidentemente pensata più che altro come una A4 rialzata, perché appunto di una A4, ovvero di una berlina di categoria medio superiore, ha tutta la maneggevolezza, la facilità, quando la guidi non è per nulla ingombrante, ed è veramente un'auto, a quel punto la si può veramente definire un'auto per tutte le situazioni. Decisamente. Va bene in città, va bene fuori città, sulla neve è splendida. Davvero un'auto completa. Senti, tra l'altro Alessio, questo come accennavi tu all'inizio è anche un trend del momento. X3 forse è stata fra le prime, ma anche GLK ultimamente. C'è un potenziale pubblico femminile a cui strizzano l'occhio le case, oltre che quello maschile con queste piccole SUV? Questo è sempre difficile da dire. Certo, auto di queste dimensioni sono ben più facili da portare in giro anche nei centri cittadini o quando si va a scuola a prendere i bambini. Tipiche come situazioni nelle quali le signore sono alla guida delle SUV, almeno a giudicare qui da Milano e penso anche dalle altre grandi città. Decisamente. Allora diamo i voti con la nostra pagella, questa Audi Q5. Posto di guida. Ampio e decisamente regolabile, come sempre sulle Audi. L'impostazione è prettamente automobilistica, appena rialzata rispetto a quella di una classica berlina. Belli e costosi i sedili sportivi presenti sull'esemplare in prova. 5 stelle. Finiture. Difficile metterla in imbarazzo, perché tutto è curato maniacalmente secondo la tradizione della casa. Materiali e realizzazione danno vita a un insieme di gran livello, capace di soddisfare anche i clienti più pignoli. 5 stelle. Comfort. I cerchi da 19 pollici presenti sulla Q5 della nostra prova non la rendono particolarmente morbida, ma si è ripagati da una silenziosità apprezzabile un po' a tutte le andature. A richiesta, sospensioni regolabili. 3,5 stelle. Su strada. Sulla sicurezza non si discute, e neppure sulla gradevolezza, che è paragonabile a quella di una buona berlina. Se invece parliamo di piacere di guida, c'è una concorrente di Monaco capace di dare maggiori soddisfazioni. 4,5 stelle. Ecco, questa era la pagella, chiudiamo allora il discorso anche con Alessio Viola. 3 pregi e 3 difetti di questa vettura, l'Audi Q5, Alessio. Allora, innanzitutto, mi spiace ripetermi, però appunto il comportamento stradale, la generica qualità della vita a bordo è veramente ad alto, altissimo livello. Poi naturalmente, come tutte le Audi, possiamo parlare bene, benissimo della finitura, che è di gran pregio, è esattamente allo stesso livello di tutte le altre auto della casa e quindi direi maniacale, l'avete detto anche voi nella pagella, e anche il motore, che ora non è più a iniettori pompa ma è passato a un più tradizionale common rail, è diventato più omogeneo, più morbido e anche un pochino più silenzioso. Bene Alessio, passiamo adesso ai 3 difetti invece. Allora, i 3 difetti sono sostanzialmente 2, perché sono la frizione pesante relativamente, sì, alla categoria, è un pochino sopra la media, e l'altra cosa un pochino più grave invece sono i comandi del navigatore, che sono dietro il cambio, quindi costringono a distogliere lo sguardo dalla strada per poterli utilizzare con sicurezza, nel senso con sicurezza nello schiacciare i tasti, ecco. Molto bene, per maggiori informazioni naturalmente vi rimandiamo a 4 ruote. Alessio Viola ci ha fatto compagnia, grazie Alessio, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a te e agli ascoltatori. Allora, buongiorno invece adesso va decisamente rivolto a Emilio De Leidi di 4 ruote. Caro Emilio, bentornato. Ciao Roberto, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Hai sentito la prova che abbiamo fatto con il tuo collega Alessio Viola? Oggi l'Audi Q5 è al centro della nostra attenzione. Ma a proposito di Audi, è per questo che ti sentiamo dopo di lui, c'è un'iniziativa molto particolare. Se non sbaglio, tu sei stato uno dei pochi, se non l'unico italiano, ad avervi partecipato oltreoceano. Che cosa hai combinato? È vero Roberto, io ogni tanto sono un ragazzo fortunato, come si suol dire, perché sono stato mandato dal mio giornale come unico partecipante italiano, giornalista italiano, a questa Audi Mileage Marathon, un classico cost to cost organizzato dall'Audi per lanciare qualche cosa che gli americani non conoscono ancora molto bene, i motori turbo diesel. Voi sapete che in America il diesel è considerato una roba un po' sporca, brutta e cattiva, sì, da riservare ai grossi camion, ai truck. Invece ovviamente Audi ha una tecnologia molto più avanzata che vuole far conoscere negli States e che utilizza per la prima volta sulla Q7 con motore 3000 TDI già omologato secondo le normative europee Euro 6. Per fare questo lancio ho organizzato una caravana di 23 vetture, non tutte Q7, ma anche A4, A3, tutte con motore TDI, e noi naturalmente abbiamo scelto l'ultima arrivata, la Q5, perché certo, era quella che ci interessava di più. Il percorso era una gara, tra virgolette, ma una gara a chi consumava di meno, quindi una specie di economy run attraverso gli Stati Uniti, da New York ovviamente a Los Angeles, passando per città importanti come Chicago, Cleveland e poi nel sud ancora Dallas, Memphis e così via. Il tutto tra l'altro in pochi giorni, avete fatto tanti chilometri. La gara così di Economy Run durava in tutto 2 settimane, noi abbiamo partecipato alla prima tappa, in particolare alla tappa che andava da New York a Philadelphia, a Chicago, e in compagnia di un collega tedesco, ma anche in compagnia di un maestro illustre di guida, cioè Emanuele Pirro, 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans, pilota ufficiale dell'Audi, che ci ha un pochino introdotto ai segreti della guida economy su questo genere di vetture. E allora ne approfittiamo, Emilio, ne approfittiamo, consegnaci questi segreti che oltreoceano ti sono stati regalati. Allora chi all'ascolto avesse sotto mano o sotto piede un turbo diesel può mettere in pratica direttamente questi consigli per consumare meno, quindi per far bene al proprio portafoglio, Emilio. Certo Roberto, guarda, ti dico solo che la nostra Q5 numero 20, dotata del motore 3 litri di cambio automatico, quindi quella, non quella che ha provato 4 ruote, ma quella con motore da 240 cavalli, più potente, più elastico, più divertente, ha consumato 6,1 litri per 100 chilometri, questo su una media di 7.800 chilometri di percorso, che devo dire per una vettura di questo genere è un risultato lusinghiero. Noi abbiamo fatto un po' peggio, però ci sono stati colleghi che hanno sfruttato per esempio anche la scia dei grossi autotreni per ridurre i consumi e così via. In condizioni realistiche è sufficiente fare quello che fanno i piloti nelle gare come Le Mans, guardare sempre molto lontano, prevedere quelle che sono le condizioni della pista nel loro caso, del traffico, in modo da evitare brusche accelerazioni e decelerazioni che comportano consumi maggiori, ottimizzare l'aerodinamica del veicolo, quindi evitare per esempio inutilmente di montare porta sci in questa stagione se non si da sciare o cose di questo genere. E la nostra era dotata di cambio S-Tronic automatico, quindi sì, sempre il rapporto migliore, però invece chi deve cambiare può ricorrere facilmente, spesso, subito alle marce alte, perché questi motori turbodiesel molto elastici permettono di girare, cioè tenere una marcia alta anche a bassi numeri di giri. Decisamente, decisamente. Bellissima avventura, caro Emilio, noi ti ringraziamo per averla riportata. Solo un 30 secondi se riesci, secondo te è ipotizzabile che ci sia il grande successo diesel gasolio che c'è stato qui fino a 2 anni fa, in realtà anche negli Stati Uniti? Ma guarda, tutto dipenderà da quello che è l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi. L'America ha vissuto un grande shock nel corso del 2008, perché pur sembrando a noi dei costi ridicoli rispetto a circa la metà di quello che costa la benzina in Italia, per loro è stato praticamente il raddoppio del costo del pieno, e quindi questo ha portato a una grande corsa, come sappiamo, alle auto ibride, e anche a prendere in considerazione dei motori più efficienti come quelli certo, di gasolio. Dipenderà dal futuro. Certo che con un petrolio in calo sotto i $40 al barile, tutto questo è un pochino rallentato. Decisamente. Ma anche la componente ambientale, il diesel pulito Euro 6 è un diesel omologato anche in California, che sappiamo che è uno stato che ha dei limiti molto rigidi. Molto rigidi, decisamente. Grazie Emilio De Leidi di Quattro Ruote, a presto e buona giornata. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Quattro ruote e dintorni. Allora, riprendiamo il discorso con i motori. Adesso tocca al professor Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore, che è già in linea con noi. Caro professore, bentornato. Grazie Roberto, ben risentito e tanti auguri agli ascoltatori. Anzi, faccio una domanda io subito a lei. Sì. Quante sono le mail di protesta dicendo ma non se ne può più di quel barboso di Paolo Malagodi, cambiate registro? Non è vero, anzi le dirò che quando soprattutto scommette il caffè con gli ascoltatori, e finora li ha sempre vinti, devo dire che sono molto divertiti. Mi preoccuperò il giorno in cui lei perderà, perché dovremmo decine e decine, se non centinaia di migliaia di persone di caffè offrirli, e quindi con è un po' un problema. Con una buona macchinetta sicuro che risolverà risolveremo il problema. Va bene, caro professore, noi qua parliamo con lei ogni mese di mercato, però questa volta facciamo una tappa intermedia, in parte perché Fiat ha fatto parlare di sé durante questa settimana e ancora la settimana prossima sarà protagonista con questo annuncio su Chrysler. Lei l'ha già commentato, i giornali pure. Cerchiamo di dare un aggiornamento su quanto successo negli ultimi giorni, cercando con lei un'analisi più approfondita. Ma è molto difficile fare un'analisi approfondita essendo all'interno di una tempesta finanziaria che ancora nell'ultima giornata borsistica della settimana, venerdì, ha visto il titolo Fiat in ulteriore calo sul pesantissimo crollo di ieri dopo l'annuncio dell'assemblea degli azionisti che ha deciso di non dare dividendi, confermando dei risultati di una gestione 2008 sostanzialmente in linea con le attese per quanto riguarda i dati finanziari, disturbando forse gli investitori, perché il dire ci sono gli utili ma li accantono perché temo tempi più brutti nel 2009 e non do dividendi può suscitare una raffica di vendite che ancora al momento nel quale gli ascoltatori sentono questa conversazione non è placata, perché vedremo la ripresa della borsa lunedì, ma con un titolo Fiat ai minimi storici sembrerebbe che la stessa manovra Fiat Chrysler sia stata giudicata in modo negativo. Decisamente. Poi c'è stato questo annuncio dell'incontro, qualcuno dice finalmente, qualcuno insomma fa qualche smorfia fra il governo e la Fiat. Quando sarà? Martedì o mercoledì? Ricordo è mercoledì alle ore 18, il ministro Scajola ha convocato a un tavolo le rappresentanze delle marche italiane tramite ANFI, associazione di categoria con sede a Torino, e le marche straniere, l'UNRAE con sede a Roma, più la Federaipa che raggruppa e rappresenta i concessionari, perché non dimentichiamolo, se le ripercussioni di un calo nelle vendite auto sono pesantissime per chi le produce, vedasi cassa integrazione, vedasi giudizi di borsa molto negativi non solo per Fiat ma anche per Peugeot, per Renault, per altre marche, l'unica che si salva un pochettino come suo solito è alla borsa di Francoforte, la valutazione di Volkswagen, che è un caso a parte, ma di questo non parliamo ora. Ecco, in questa situazione chiaramente c'è un terzo attore che è costituito dai concessionari, i quali di fronte a vendite in un mese normale come questo di gennaio nell'ordine delle 233-234 mila unità, a questo momento stanno procedendo a vista verso le 170 mila, che significa un meno 27-28%. È chiaro che in queste situazioni anche questa categoria è molto pesantita da un calo di domanda che può essere migliorato o tonificato da delle misure governative che vedremo se dopo questo mercoledì usciranno. Eh sì, decisamente, qui qualche aiuto ci vuole per tutta la filiera, come dice lei, non solo per chi le produce, pensate a tutto l'indotto, tutte anche le aziende più piccole ma che producono pezzi per vetture, pezzi aftermarket, evidentemente circolando meno vetture nuove poi ci sono meno controlli e c'è bisogno insomma di meno manodopera in questo senso. Professore, rimaniamo sul 2009 e con questo facciamo un ragionamento conclusivo. Alla fine di dicembre, forse non tutti gli ascoltatori erano collegati per via delle feste, lei per la prima volta, devo dire storicamente, da questi microfoni si è detto un po' più pessimista del solito. È cambiato il suo giudizio o vede un 2009 davvero più difficile per il mercato dell'auto? No, non è cambiato, anzi l'andamento fino a questo momento del mercato auto, poi vedremo l'ultima settimana, parlo di quello italiano, ma è così per quello europeo e così per quello statunitense, lo conferma nettamente. Una caduta di domanda che dipende dal rallentamento dell'economia nel suo complesso, ma dipende da una sfiducia del consumatore sull'acquisto di un bene durevole, l'automobile, che normalmente lo impegna anche in pagamenti rateali per gli anni a venire, di fronte all'incertezza se il suo lavoro continuerà normalmente o se verrà messo in cassa integrazione ancora di peggio. Chiaramente questa propensione al rinnovo non solo si rallenta, ma addirittura in alcuni casi tende ad interrompersi. Abbiamo dei dati di mercati come la Spagna e Irlanda, in cui il calo della domanda non è stato del 27-28%, come parliamo dell'ipotesi di gennaio, ma parliamo del 60-70%, quindi vuol dire che in quelle situazioni si diffonde veramente una difficoltà ad affrontare spese impegnative quali quelle per l'auto, e in questa situazione una misura del governo italiano che si ponga sulla stessa lunghezza d'onda di quello indicato dal governo francese, di quello indicato dal governo tedesco, anche se sono provvedimenti quello tedesco che debbono ancora essere approvati in forma definitiva, permette al mercato almeno di dire ci muoviamo in direzione di 1.000.000 milioni e 950, 2 milioni mettendo soprattutto categorie a basso reddito, magari di gente ancora che possiede dell'euro 0 e euro 1, con un sostanzioso incentivo, e qui va messo il puntino su lì, non è coi 700-800 euro del provvedimento 2008 certo. Che si risanerebbe il mercato, ne occorrono a mio parere non meno di 1500 per creare, 1500 euro intendo, per creare una dimensione aggiuntiva a quella proiezione che oggi, ripeto, sconsolatamente fa fatica ad arrivare a 1.800.000. Grazie davvero professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, ci farà compagnia anche fra due settimane, direi appena abbiamo i dati di questo gennaio, speriamo bene, grazie professore, a prestissimo. A presto, risentirci. Allora, salutato il professor Malagodi, rimaniamo in ambito mercato e soprattutto concessionari, perché poi sono loro che vendono direttamente ai clienti, cioè a noi consumatori automobilisti, con Mario Rossi. Caro Mario, bentornato. Bentrovati a voi, a te e a tutti gli ascoltatori. Con Mario abbiamo parlato di assicurazione, abbiamo parlato davvero tante volte di auto, ritorna per parlare di una dinamica un po' particolare che sta avvenendo, che tu hai registrato insieme ai tuoi colleghi per un'inchiesta sui concessionari. Che cosa avete capito? Cosa stanno facendo i concessionari ultimamente quando hanno di fronte dei clienti, Mario? Noi eravamo incuriositi, volevamo andare a vedere cosa stava succedendo poi sul mercato, vero, quello sì. Degli autosaloni, con la fine degli incentivi e in un periodo di crisi, quindi con una congiuntura veramente particolare. E volevamo andare a vedere se c'erano sconti particolari, incentivi particolari, campagne nuove, finanziamenti, insomma come ci si comportava sui finanziamenti, fare un po' una ricognizione. E abbiamo scoperto parecchie cose interessanti, per esempio che per la prima volta da moltissimi anni non abbiamo trovato praticamente chilometri zero, salvo rare eccezioni sì. Naturalmente, però diciamo in generale chilometri zero non sono state fatte alla fine dell'anno. Negli anni scorsi invece la fine dell'anno spesso, era un traguardo impegnativo per i concessionari per raggiungere gli obiettivi certo. Fissati con le case, quindi avevano necessità di immatricolare e quindi all'inizio dell'anno nuovo si trovavano nei piazzali o nei saloni parecchie macchine, sono praticamente scomparse. Ecco, i motivi non sono neanche difficilissimi da trovare no. Perché in effetti avendo diminuito le vendite di tanto sono rimaste in magazzino tante auto. Sono rimaste in magazzino tante macchine e la presenza di campagne promozionali delle case, di forme di incentivo, no? Chiamate così, di sconti particolari, di fatto hanno reso non più conveniente una chilometri zero, che a tutti gli effetti da un punto di vista amministrativo una macchina vecchia, immatricolata lo scorso anno, quindi come dire che ha già iniziato a perdere valore, per la quale è necessario fare un passaggio di proprietà, di fatto sarebbe costata come una macchina nuova e quindi perdeva un po' di senso farla. Chilometri zero non si trovano, però si trovano molte macchine scontate, con sconti abbastanza importanti. Ovviamente dipende dalla marca, dipende dal modello, dipende dal fatto di dare in permuta una macchina usata oppure no, di avere una macchina da rottamare, perché poi magari ne parliamo, alcune case propongono degli incentivi alla rottamazione sì. Fatti in casa, diciamo così, però di sconti in giro ce ne sono parecchi e possono arrivare, superare il 20%, arrivare in qualche caso anche al 25%. L'abbiamo detto, è il momento di comprare in realtà e sono momenti terribili per vendere. Lo sa chi ha un'auto in vendita, un'auto magari un po' vecchiotta, con un euro 2 o euro 3, insomma si fa davvero difficoltà a trovare chi compra ad un buon prezzo. Consigli per gli automobilisti e poi utilitarie, Mario? Consigli per gli automobilisti sono quelli. Beh, intanto è un buon momento per comprare se si ha, se si deve comprare. Ah beh, certo. È evidente, insomma, non si compra solo perché c'è una buona occasione. Il consiglio è sempre il solito, farsi fare più preventivi, informarsi bene sulle campagne delle case, chiedere ai concessionari, non lasciare zone oscure d'ombra quando ci si trova davanti a proposte proposte particolari tipo campagne e rottamazione, come vengono definite attualmente, e stare attenti a varie voci di preventivo, perché come abbiamo riscontrato anche stavolta, in molti casi i concessionari è vero che sono obbligati in qualche maniera a fare uno sconto sostanzioso, poi cercano di recuperare da altre parti inserendo voci strane su costi strani a carico dell'acquirente sul preventivo, certo. Tipo cose messa su strada, kit di consegna, aumentando l'IPT in maniera fantasiosa. È un'imposta che si paga alle province ed è un numero che vale per tutti, ovviamente è un importo che vale per tutti, quindi stare attenti, farsi fare tanti preventivi e se si ha l'occasione sfruttare l'occasione, perché spesso c'è, sì, sul mercato. Spesso c'è, decisamente. Senti, il discorso sulle utilitarie lo teniamo buono per sabato prossimo, perché così lo approfondiamo, ma quanto detto finora credo dia già molti spunti agli ascoltatori. Grazie davvero Mario Rossi, a prestissimo e a sabato prossimo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Diamo il cambio subito di testimone ad Alessandro Carcaro. Caro Alessandro, bentornato, buongiorno. Ciao, bentornato anche a te. Collega di Quattro Ruote. Quattro ruote e dintorni. Allora, abbiamo in linea Alessandro Carcano di Quattro Ruote. Caro Alessandro, è successo qualcosa di storico e Toyota ha superato GM. Si parla di vendite mondiali, si può dire che è il primo costruttore al mondo? Assolutamente sì, erano anni un po' questi ultimi in cui si parlava di questa possibilità e quest'anno si è verificato. C'è da dire una cosa interessante, che Toyota dal 1941 non ha mai avuto un bilancio in passivo, e questo è il primo anno in cui invece il suo bilancio è stato in rosso. Ciò nonostante, il sorpasso sul GM è avvenuto. Eh beh, questo significa che GM ha perso proprio tanto, del resto questo conferma tutte le analisi, tutti i conti. Momentaccio davvero per l'industria americana. Recentemente, non so se lo avete visto in TV, c'era anche un bel documentario su Detroit, su Chicago, su tutte le città che insomma fino a 3-4 anni fa erano veramente la concentrazione massima di tutta l'industria americana. Soffre tanto il mercato americano, l'anno scorso 2008 è raddoppiato il costo del carburante, grande shock, ce l'ha detto prima Emilio De Lady. Come si comporta GM in questo caso con gli investitori e gli automobilisti? Ha dato qualche comunicazione, Alessandro? Ma sì, in particolare dopo questi 77 anni consecutivi di dominio e la perdita dell'11% sul mercato globale, ha cercato un attimino di correre ai ripari in casa propria, facendo pubblicare un'intera pagina su una rivista specializzata, Automotive News, in cui chiedeva proprio scusa. In particolare dice: vi abbiamo deluso, in alcuni momenti abbiamo tradito la vostra fiducia lasciando che la qualità scendesse sotto i solidi standard e che il design diventasse banale. Addirittura? Esatto, come se un tentativo da parte del presidente Rick Wagoner di insomma risollevare un po' l'immagine e magari anche di salvarsi la poltrona, ecco. Beh, insomma, una missione di colpa anche importante quando si parla di design diventasse banale. Mi ha colpito questa tua citazione del testo GM, decisamente. Senti, come credi che evolverà la situazione? Sicuramente questo 2009, hai sentito Malagodi pochi minuti fa, ci ha detto che insomma le prospettive non sono affatto rose. Hai qualche rumors dall'America? I finanziamenti sono arrivati, quindi ha deciso il governo di aiutare anche lì i produttori dei motori. Il 2009 continuerà in crisi, però anche le tre big three americane, compresa anche Ford e Chrysler, abbiamo sentito anche di recente questa joint venture di Chrysler con Fiat, stanno tutte tentando di ottimizzare il proprio lavoro proprio per cercare di limitare i danni. Sicuramente il 2009 sarà solo volto a limitare i danni, e gli anni a venire rimangono un po' un punto di domanda, ecco. Ok, molto bene, grazie Alessandro Carcaro di Quattro Ruote, ci risentiamo poi sabato prossimo. A presto e buona giornata. Grazie a te. Adesso rimaniamo in ambito motori, evidentemente, ma con una sottolineatura particolare. La nostra mail, che intanto ne approfitto per ricordarvi, 4 scritto in numeri, ruote@radio24.it, oltre che un punto di incontro fra noi e voi e anche un modo per arrivare a quegli esperti che non è facile andare a pescare da singoli consumatori, è anche il contenitore a cui inviare i propri dubbi a sfondo legale. Sapete, ci fa compagnia ormai da qualche settimana l'avvocato Erika Lievore dello studio di Milano. Avvocato, bentornata. Buongiorno, lei Rasia. Allora, arrivano, fioccano le domande degli ascoltatori, noi cerchiamo di prendere quelle che non hanno evidentemente un'importanza troppo personale e singola perché non sarebbero interessanti per tutti, ma quelli che possono darci lo spunto per conoscere insieme a lei il codice della strada, ed è per questo che iniziamo sempre dalla norma generale. Ci ha scritto Laura, la signora Laura ha tamponato un veicolo, ammette la sua distrazione, quindi in questo caso nessun contenzioso, ma si è vista togliere la patente per recidiva e chiede che cosa significa, ha chiesto, non le hanno spiegato come si deve, insomma indubbiamente bisogna dare qualche spiegazione. Partiamo dalla norma anche qui, avvocato. Sì, partiamo infatti dal codice della strada come abbiamo fatto anche in precedenza. Sì. E partiamo proprio dall'articolo 149, che è quell'articolo che si occupa di distanze di sicurezza tra i veicoli. Questa norma prevede come durante la marcia i veicoli debbano tenere rispetto al veicolo che li precede una distanza tale che possa garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo. E questo perché non solo per evitare delle collisioni con il veicolo che ci precede, ma anche quello di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che possa essere ricollegabile alla circolazione del veicolo che ci precede, ma anche ad un eventuale ostacolo che si frapponga tra noi che guidiamo il nostro veicolo e comunque il veicolo precedente, quindi ricollegabile in realtà ad una circolazione stradale. Stradale, decisamente. Per quanto riguarda, visto che siamo in ambito invernale, quegli spazzaneve, quegli sgombraneve, dice qualche cosa il codice a proposito? Poi veniamo alla signora Laura. Sì, questo tema che è appunto adesso di grande attualità è previsto anche dal terzo comma della norma del codice stradale, quindi dall'articolo 149, che prevede in questo caso specificamente una distanza minima che è fissata in 20 metri dalle macchine sgombraneve. E addirittura prevede che in caso di circolazione di questi veicoli dobbiamo addirittura arrestare il nostro veicolo e anche se veniamo dal senso opposto arrestarci, quindi e non intralciare il lavoro di queste macchine, quindi una norma che dà e fissa espressamente certo, per distanza. Dare spazio a chi sta lavorando in quel momento con sanzioni evidenti. Veniamo adesso alla signora Laura invece, dice ho tamponato, era colpa mia, mi hanno tolto la patente per recidiva, cos'è questa storia? Allora, diciamo che in generale vengono previste delle sanzioni amministrative nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di sicurezza e questa sanzione amministrativa viene normalmente fissata da 36 euro a 148 euro. Sì. Quando dall'inosservanza delle distanze di sicurezza deriva inoltre una collisione tra i veicoli con grave danno anche dei veicoli stessi, possiamo incorrere sia ad una sanzione amministrativa che in questo caso viene addirittura elevata e si parte da 74 fino ad arrivare a 296 euro, alla quale si aggiunge questa recidiva, vale a dire una sanzione amministrativa accessoria nel caso in cui nell'arco di 2 anni si sia almeno 2 volte violata questa norma riguardante la distanza di sicurezza. Ecco il motivo per cui una sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Decisamente. Poi ci sono le conseguenze penali ancora più rilevanti nel caso ce ne fosse bisogno. In una battuta, avvocato, dobbiamo salutarci. Chi tampona ha sempre colpa, è un vecchio motto, ma è vero o no? Ma diciamo che in termini giuridici possiamo dire che il conducente di un veicolo dovrebbe essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del suo mezzo, evitando ogni collisione. Possiamo affermare che l'avvenuta collisione pone a carico del tamponante, quindi del conducente, una presunzione di inosservanza delle distanze di sicurezza, per cui sarà il tamponante ad avere l'onere della prova liberatoria, cioè di dimostrare che il suo mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione e tamponamento sono stati determinati da cause di tutto o in parte a lui non imputabili. Decisamente. Certo. Articolo 149, codice della strada, come facciamo ogni settimana, andatelo a leggere, c'è anche la giurisprudenza in molti codici che commenta la norma, è molto interessante e anche abbastanza semplice. Avvocato Lievore, grazie, a prestissimo, anzi alla prossima settimana. Grazie a lei e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Allora, salutiamo l'avvocato Erika Lievore, ricordando anche la nostra mail attraverso cui potete contattarla, 4 scritto in numeri, ruote@radio24.it. Aspetto le vostre mail, le girerò personalmente allo studio legale. Allora, Bibi Bellini, buongiorno e benvenuto su Radio 24. Buongiorno, è uno dei soci del Montesole Bike Group, sede bolognese della FIAB. La FIAB, per chi non lo sapesse, è la Federazione Italiana Amanti della Bicicletta. Quindi nei nostri dintorni di Quattro Ruote dintorni, adesso ci occupiamo dopo circa 40 minuti di togliere i motori e i nostri mezzi, rimaniamo con la bicicletta che sempre rimane il mezzo più pulito, e fra poche ore a Bologna succederà qualche cosa. Si chiama Pedalare con Arte. Bellini, la vuole descrivere lei ai nostri ascoltatori? Certo, quest'anno in occasione di Arte Fiera, la Fiera Internazionale di Arte Contemporanea che si tiene ogni anno a Bologna, abbiamo proposto ad Arte Fiera di cucire alcune location dove saranno installate delle opere d'arte nel centro di Bologna, di cucire appunto con un percorso in bicicletta, per cui alle 17.30 in Piazza Maggiore ci si ritroverà tutti quanti per raggiungere questi luoghi in bicicletta, appunto. Per cui il suggerimento è anche a chi usa l'auto e certo, la moto di utilizzare per questa giornata, questo pomeriggio e questa notte, la bicicletta, che è energia metabolica. Decisamente. Senta, a proposito di energia, cercherete anche, è un po' un esperimento, non si sa se riuscirà, ma cercherete di convogliare tutta l'energia in un punto solo? Esatto, proveremo installando dei bicigeneratori, ovvero delle biciclette collegate a delle batterie, di illuminare dei cartelloni e di illuminare parti della piazza, la grande piazza di Bologna, Piazza Maggiore. Senta, Bellini, ne approfitto della sua presenza, visto che noi sentiamo e ci occupiamo colpevolmente, insomma, poco di biciclette, ma ogni tanto riesco a farlo, del resto il programma è di motori. Che rapporto hanno i ciclisti con gli amanti di motori? Perché poi quasi tutti i ciclisti sono anche automobilisti, evidentemente. Che rapporto c'è fra le due categorie? Dipende anche dal tipo di ciclista. Ci sono i ciclisti della domenica che spesso si muovono in sì, gruppo, che hanno un pessimo rapporto con gli automobilisti e viceversa. E ci sono invece ciclisti urbani molto ligi e rispettosi, e che girano soprattutto con le luci, e questo è un suggerimento che mi sento di inoltrare a chiunque va in bici, che invece hanno un buon rapporto. Addirittura a Bologna c'è stato tempo fa un patto di non belligeranza, sì, tra virgolette, tra autisti degli autobus e ciclisti. Eh beh, è importante. Delle preferenziali in comune. In città, decisamente. L'auspicio è sempre quello di avere quante più vie, insomma, o pedonali o ciclabili, questo sarebbe sempre il massimo in ogni città, è anche sintomo di grande educazione civica. Grazie davvero a Bibi Bellini, appuntamento oggi è a Bologna, a presto e buona giornata. Ma soprattutto c'è l'arte. L'arte, decisamente. Raccontiamo, infatti, che c'è l'arte da vedere a Bologna. Pedalare con arte, non a caso è il titolo. Buona biciclettata a tutti, a presto. Anche a lei. Con la voce di Bibi Bellini termina la nostra trasmissione, che vi ricordo da oggi va in onda quindi a questo orario, ore 14 di ogni sabato. Vi aspettiamo poi su radio24.it, la nostra mail è sempre quella, 4 scritto in numeri, ruote@radio24.it. Giacomo mi ha fatto compagnia in regia, grazie Giacomo per le tue sonorità, Roberto Rasia vi ha parlato, vi augura soprattutto una buona guida durante questo weekend.